parlassi di tre giorni di musica, di un mega concerto senza scaletta in mezzo a un prato, insomma, voi pensereste sicuramente, giustamente, a Woodstock 1969, insomma, il primo grandissimo festival del quale si parla ancora oggi. Ma in realtà pochi anni dopo in Italia c'è stato qualcosa di molto simile, con le dovute differenze. 25 maggio del 72, 50.000 ragazzi giovanissimi riempiono il parco di Villa Pamphili a Roma. Tra gli artisti sul palco c'è anche il nostro protagonista, è un ragazzo dai capelli lunghi, canta di fughe da casa, è un po' particolare rispetto agli altri, si chiama Claudio Rocchi, è il nostro protagonista. La canzone La sua prima luna, per esempio, sarà un pezzo che, insomma, per quelli della mia generazione, un pezzo veramente importante. Il tema è classico alla She's Living On dei Beatles, o se volete Piccola Katie, cioè la ragazza, il ragazzo che parte e se ne va via da casa. Costo del biglietto del festival 300 lire per 8 ore di musica al giorno per 3 giorni, prezzo politico si sarebbe detto. I ragazzi arrivano da tutta Italia, sono affascinati da questa cultura, diciamo pure hippie, la cultura che in America stava sdoganando l'amore libero, ma stava soprattutto fermando la guerra in Vietnam. Un evento del genere non si era mai visto prima in Italia, molti arrivano anche in curiositi, non c'è una programmazione definita, sale sul palco chi è pronto, e il cast è super eterogeneo, c'è, non so, un Francesco De Gregori al debutto, gli Osi Bisa che erano un po' il piano B dei Santana, e poi c'era il Banco del Mutuo Soccorso, c'erano i New Trolls, Richard Benson, il Punto, c'erano i Trip di Giovescovi, personaggio leggendario, magari un giorno ne parleremo. Ma c'era anche questo ragazzo di 20 anni che arriva da Milano, si chiama Claudio Rocchi. È una delle sue prime esibizioni da solista, perché fino a pochi anni prima era stato il bassista degli Stormy Six, dei quali parleremo dopo, durante questa puntata. Ci sono anche loro comunque al festival. Lui ha i capelli lunghi, l'aria sognante. Questo è quello che lui ricorda della sua esibizione di Villa Pamphili durante l'evento Villa Pamphili Memorabilia del 2003. Proposi di non usare accendini con il buio per il solito numero, ma fuochi. Non migliaia di accendini, ma una decina di fuochi. Scesi dal palco, frastornato dall'energia raccolta, camminando sospeso da terra di un 30 centimetri buoni. Ma proprio buoni. Qualcuno al solito chiedeva autografi mentre cercavo di uscire dal backstage. Chiedevo il nome, non sentivo Correct, la cerimonia dell'autografo, e così firmavo con la mia grafia il nome del richiedente. Col nome la madre di tutto e di ogni cosa, il nome divide la forma e l'illusione. Claudio nasce l'8 gennaio del 51 a Milano, è il tipico ragazzo di buona famiglia, il padre è un costruttore edile, abita in una bella casa in Viale Campania, famiglia dell'alta borghesia milanese che sta vivendo il suo boom economico. Claudio è il piccolo di casa, ha due fratelli più grandi, lui è il più viziato, è un ragazzo molto intelligente, va molto bene a scuola, ma è anche molto stravagante, lo spiega lui stesso in un'intervista a Libero del 2012. A 5 anni ho la percezione di una vita precedente. Seduto in camera da letto resto come imbambolato. Mi vedo davanti ad una catena di monti con il cielo sereno. Scrivo di getto. Niente mi attende al di là dei monti. Niente mi attende al di là del mare. Niente. Sempre niente. I miei genitori, preoccupati, mi portano dallo psicologo, il quale spiega che è il ricordo di un'altra vita. Da quel momento credo nella reincarnazione. Ma oltre alla folgorazione per il misticismo, che rimarrà importante, il cardine, direi, della vita di Claudio Rocchi, c'è anche quella per la musica. La prima volta che pensa di voler fare il musicista è a 12 anni, ha visto un concerto dei Beatles in TV e, come tutti i ragazzi di quella generazione, è nata la voglia di salire su quel palco. Peraltro, insomma, i Beatles avevano anche, come dire, un appeal unico della storia. Il primo caso di reggiseni gettati sul palco, di ragazzine che urlano. Però la sua non è solo così una fascinazione giovanile. Lui ci sa fare, è bravo, a 15 anni è già bassista e cantante degli Sconosciuti, che è un complesso beat studentesco. Passa le selezioni di un concorso nazionale con questo gruppo, arrivano in finale, non vincono, lui viene selezionato come cantante, fa un provino all'RCA di Roma, è un'occasione enorme. I provini del giovedì dell'RCA di Roma erano qualcosa di mitico, tutti i giovedì arrivavano centinaia di aspiranti cantanti. Parte da Milano con la sua 12 corde Eco Ranger, arriva in sala d'incisione, fa una performance che sembrerebbe una presa in giro, insomma sicuramente è fuori dalle righe, sta improvvisando una talking song, una canzone parlata, e oggi lo chiamerebbero rap. Lui parla di deliri visionari. In studio c'è un produttore storico che si chiama Lilli Greco, che lo trova interessante, ma lo trova anche giovane e acerbo. Sui sagrati delle chiese. È il 1968, Claudio viene notato dal manager degli Stormy Six e entra nella band come bassista cantante. Gli Stormy Six sono un gruppo molto popolare nella scena milanese underground. Claudio ha solo 17 anni. Esce il primo album degli Stormy Six, Le idee di oggi per la musica di domani. È un genere tra il cantautorale e lo psichedelico. C'è un brano con Claudio che figura anche come autore cantante, Sotto i portici di marmo. Lui è bravo anche alla voce. La casa discografica del gruppo lo nota, senza dirlo agli altri componenti, gli propone un contratto da solista. Claudio è imbarazzato, non sa se accettare, però è anche vero che all'interno della band cominciano a crearsi delle spaccature. In realtà gli Stormy Six subiscono, insomma, artisticamente una evidente involuzione, perché in quegli anni loro prendono, diciamo, la direzione in realtà del cantautorato impegnato, in pratica diventano semplicemente un gruppo politicizzatissimo e sempre meno interessante musicalmente. Bisogna essere schierati in quegli anni, lottare per il proletariato, non è più tempo di sogni. Claudio è diverso, non sente questa necessità, anzi questa idea non gli piace, e accetta alla fine la proposta della casa discografica, che è la Ariston. Questa è un'intervista del 2011 per la Salumeria della Musica con Claudio Massarini. Da destra mi hanno sempre visto come uno di sinistra, da sinistra mi hanno sempre visto come uno di destra. Io ho sempre avuto il vezzo di scegliere l'alto come direzione, anche perché dall'alto si vede tutto assai meglio. È un problema di incroci, cioè si stava in una piazza, ognuno andava in una sua direzione. E gli Stormy Six continuano nella loro carriera, fanno anche una canzone, Leone, che diventa un tormentone estivo per motivi diversi da quelli per i quali era nata. Insomma, Arbore la include in alto gradimento. La canzone racconta di un pendolare sulla strada per Milano che viene adescato dalle prostitute, e peraltro allora il presidente della Repubblica era Giovanni Leone, quindi si gioca anche su tutto questo. Le posizioni opposte di Claudio verranno ribadite nel 1971, questo è un articolo al Vangelo di quegli anni, cioè la rivista Ciao 2001. Una piccola divisione fra la gente, il pugno alzato, la faccia seria e consapevole ma non rilassata di quanti qui hanno portato la convinzione che il mondo e la gente si possano cambiare con una rivoluzione fatta di violenza contro la violenza, ma sempre di violenza. Dall'altra parte il colore, ma soprattutto la calma e la disponibilità di quanti invece sentono che la gente non si può cambiare, ma solo forse accendere, perché ognuno per conto suo in mezzo agli altri e quindi insieme agli altri maturi la sua chiarezza, la sua coscienza, il suo amore. È una critica che sa di provocazione diretta ai suoi vecchi compagni della band. Gli Stormy Six rispondono con una canzone dedicata proprio a lui, il brano si chiama Fratello, il messaggio è più o meno questo: prima si fa la rivoluzione, poi si pensa alla felicità interiore e alle chiacchiere. Quello è un po' un mantra della sinistra. E io ricordo un processo a Claudio Rocchi, sarà stato il 72, Teatro Parenti, anzi allora si chiamava Teatro teatro Pier Lombardo, con la gente che lo contesta presenti. C'erano anche altri cantautori, c'era Venditti che era già famoso, c'era Ivan Graziani. Insomma, a un certo punto Claudio Rocchi viene obbligato a vuotare le tasche, mi ricordo ancora, lo aveva 5.000 lire che vennero requisite per la lotta del proletariato, e Claudio Rocchi lasciò il palco, ma lui insomma volava molto più in alto di quella gente. Insomma, Claudio si sta spostando, si sta differenziando da quella che è la musica militante di quegli anni, sta volando più in alto. Nel 70 era già uscito il suo primo album Viaggio, comincia ad avere un certo successo, e anche perché c'è un personaggio che già aveva spinto gli Stormy Six che si interessa a lui, si chiama Renzo Arbore. La trasmissione radiofonica Per Voi Giovani affida a Claudio una rubrica, Spazio Rock, dedicata alle novità musicali. La selezione di Rocchi è insolita, me lo ricordo, insomma io a 13 anni ascoltavo questa musica che non si sentiva da nessun'altra parte, Cat Stevens, la musica folk, non so, gli Strobes, questi gruppi inglesi particolari. Ecco, Claudio Rocchi contribuisce insomma a fare conoscere questa musica ai ragazzini, tra i quali c'ero io. Alla fine di ogni canzone lui fa la traduzione, fa delle considerazioni che conducono a una conclusione, che è la convinzione di Rocchi, la realtà non esiste, che diventerà anche il titolo di un suo brano molto celebre. Questo è un estratto della trasmissione del 72 dopo Sometimes di Alan Taylor. Tutto quello che può essere qualche volta, tutto quello che si può sentire qualche volta, un momento che si è abituati a dire particolare, felice, fuori dalla norma. Il grosso messaggio di Alan Taylor è proprio qua, è che qualche volta è adesso ed è tutte le volte che tu vuoi, soprattutto, giusto perché la realtà non esiste. La realtà non esiste. La realtà è la realtà che si crea, pensando, volendo, immaginando di volta in volta. Quindi 3 miliardi di realtà per 3 miliardi di persone non sono la stessa realtà. Sono 3 miliardi di realtà diverse. La realtà, tra virgolette, non esiste. Claudio Rocchi, ciao, con amore. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando Claudio Rocchi, che amava definirsi cantastorie visionario, menestrello psichedelico. Stiamo raccontando quel periodo particolare, anni 70, quindi la parte diciamo militante della musica che in qualche modo si scontra invece con la parte più artistica. Mi piace ricordare nella canzone La tua prima luna Donatella Bardi, intanto perché andava al Berché come me, poi perché era insomma una, dico era perché purtroppo non c'è più, una delle voci più interessanti di quel periodo, veramente un usignolo. Comunque siamo arrivati alla fine degli anni 70, lui è all'apice del successo, insomma comincia a stare bene da tutti i punti di vista, però sente che qualcosa gli manca. Nel 79 sta per entrare in quella che in un'intervista lui chiama la sua terza vita, quella da aspirante santo. Prima di arrivare a quel punto però facciamo un passo indietro, torniamo al 71, l'anno del Volo Magico, album psichedelico spirituale che segna in maniera decisiva la musica di Rocchi. Lui intanto è diverso da tutto l'underground milanese e italiano, la sua musica soprattutto non ammicca a nessun movimento politico, questo ovviamente è una cosa pericolosissima in quegli anni, ma è che gli fa onore. Ci sono temi sociali, ma sono sempre affrontati diciamo in un'ottica interiore, in un'ottica intimista. Questa è un'intervista del 2011 con Claudio Massarini. Io studiavo filosofia alla Statale a Milano, ero un giovane studente di filosofia. Non ho fatto molta fatica a trovare molto più interessanti le filosofie orientali, tutte in un blocco rispetto a quelle occidentali, persino le più profonde. ho prestato attenzione, occhi e orecchie ai segnali dell'underground americano, inglese, soprattutto in quei tempi. E quindi forse fra i primi a me hanno aperto gli occhi e le porte della percezione i miei fratelli maggiori, non so, mi ricordo Roy Harper in Inghilterra, ovviamente, Dylan, i Byrds. A 20 anni, nel 1971, segue un po' la strada che molti in Inghilterra avevano intrapreso qualche anno prima, la strada dell'India. Va a Goa, rimane folgorato, sperimenta l'anarchia vera, si trova in questo villaggio di uomini e donne che vivono mezzi nudi, fumando canapa e sperimentando allucinogeni al tramonto, e lì conosce un personaggio incredibile, è un baba, una specie di sciamano che prima di morire si mette a disposizione della comunità e in cambio di un dono il baba risponde a qualsiasi domanda. Claudio gli si avvicina, gli porge un barattolo di marmellata. Il vecchio uomo è stranito, non sa cosa farne. Claudio lo invita a assaggiare la marmellata. Il baba fa una cosa insensata, lecca il vasetto da fuori. Dietro a quel gesto Claudio è convinto che ci sia un insegnamento. Questo è quello che racconta di quell'incontro. Il baba prende il barattolo e lo lecca da fuori. Sorride. Non è molto saporita. Beh, se lecca il vetro. Sorride ancora. Credi che così possa sentire il gusto della marmellata? No, e me ne vado, con il dubbio che mi stia prendendo in giro. Dopo 3 giorni capisco. Il messaggio è semplice. Se vuoi capire qualcosa, devi entrarci. Se vuoi capire una filosofia, non basta leggerla. Bisogna viverla. E per molti anni in radio Claudio intervista i grandi guru di passaggio in Italia, studia lo sciamanesimo, ma come gli dice il baba nel 71, le filosofie non basta leggerne, bisogna viverle, bisogna entrarci. Lui non è solo affascinato dall'Oriente, diventa anche critico verso quel mondo. Lo conquista però un testo, la Bhagavad Gita, il testo sacro degli Hare Krishna. L'Hare Krishna, associazione religiosa di origine induista, è stata fondata a New York nel 66, negli anni 70 è diventata molto famosa e seguita anche in America e in Europa, per capirci, insomma, quei ragazzi che probabilmente avete incontrato anche voi nelle vostre città, tunica arancione, testa rasata, vendono incenso, libri di cucina vegetariana, libri sulla reincarnazione. È un movimento che, insomma, ha avuto pareri discordanti, una setta o un modo di vita, ha raccolto ex hippie, ex tossicodipendenti che volevano cambiare vita, aveva le sue rigide regole di comportamento. Hare Hare Krishna, Hare Kanna, Hare Rama. E Claudio comincia a sostenere economicamente l'associazione, fa donazioni da esterno. Nel 79 decide di cambiare radicalmente la sua vita, di aderire in tutto e per tutto a questa dottrina. Si trasferisce in Toscana nella comunità degli Hare Krishna di San Casciano, si rasa i capelli, ha solo un codino sulla nuca, cambia nome, Krishna Caitanya Das. La dottrina gli impone dei divieti molto rigidi, insomma a Cruciani non piacerebbe questa teoria. Non può mangiare carne, latte, uova, niente sostanze intossicanti, niente droghe, niente tabacco, tè, caffè, niente, qui andiamo male, niente rapporti sessuali fuori dal matrimonio che non prevedano la procreazione. In realtà Claudio è sposato da qualche anno con Manuela Mantegazza, hanno una bambina di 3 anni che si chiama Chai, la moglie lo segue, nessuno dei due è intenzionato ad avere altri figli, insomma entrambi dichiarano di vivere in castità nonostante il matrimonio. L'adesione alla dottrina è totale. Claudio incide 3 dischi per l'associazione, canti di chiesa, mantra, il secondo album uscito nell'80, Un gusto superiore, si stima abbia venduto 2 milioni di copie, diffuse solo attraverso la vendita porta a porta nel mondo, e il guadagno Claudio lo devolve ai suoi amici, alla sua associazione. E c'è un'altra cosa che Claudio vuole fare per gli Hare Krishna. Loro hanno un tempio a Gallarate, la domenica Claudio è spesso lì per le feste tradizionali, dolci indiani, profumo di spezie nell'aria, cumino, curcuma, zafferano, persone che arrivano da tutte le comunità. Bene, Claudio vuole mettere a disposizione della chiesa la sua esperienza da radiofonico, propone al capo, al priore, di buttare nell'etere di Varese e dintorni il mantra Hare Krishna. Un paio di registratori, un mixer, un'antenna sul tetto, si sarebbe occupato di tutto lui. Nasce la prima frequenza di Radio Krishna Centrale. E poco dopo lui diventa priore della sua comunità in Toscana. Questo è Claudio Rocchi in un'intervista a Radio Sassari. Per 15 anni sono uscito dal mondo, ho preso i voti e sono, ho vissuto come un monaco induista. Sono trovato a fare una scelta del genere perché a un certo punto tutto mi sembrava già visto, già vissuto, già masticato, già digerito, già scontato. E per desiderio di conoscenza invece avevo molta voglia di cercare di capire a cosa diavolo o a cosa Dio, a seconda dei casi, serve quel 98%, 99% in certi casi di cervello che è del tutto inutilizzato, no? Ecco, questa era la mia grande curiosità, e certi metodi della filosofia e psicologia del profondo ci lavorano proprio a cercare di, come un lavoro di palestra, a stimolare l'uso di questa parte quasi atrofizzata di cervello, si può dire riduttivamente, ma poi in realtà di coscienza. Nel 93 esce, diciamo, dall'Hare Krishna militanti, ma non rinnega nulla della sua vita da monaco, rientra semplicemente nel mondo, vuole tornare in sala di registrazione, esce l'album Lo Scopo della Luna nel 94. E intanto si separa dalla moglie, ma lui ha come la sensazione di essere rinato e mette in discussione molte cose della sua vita, ha tanti progetti, oltre alla musica c'è il suo vecchio amore che è la radio, e questo amore lo porterà lontano perché nel 99 è a Kathmandu in Nepal, lì fonda e dirige la prima radio indipendente nepalese. Kathmandu, lui lo definisce un posto speciale che emana onde spirituali che da sole già trasmettono come una radio. E questo è lui nel filmato del backstage del documentario Attraversando il Bardo di Franco Battiato, diretto da Susie Blady. E soprattutto ne abbiamo bisogno noi, io per primo, per cui sono qui in una missione autoterapeutica. Ah, vabbè, no? Non ti sbagliare, che fai, sono generoso. E poi, secondo motivo, sono qui professionalmente, direi quasi super professionalmente, e dopo 15 anni di vita militante spirituale a salario zero mi sto prendendo una giusta rivincita. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Claudio Rocchi, fortemente spiritualista, lui crede nella reincarnazione, dice di avere vissuto molte vite. La prima vita è stata quella da studente, la seconda quella da aspirante pop star, la terza da aspirante santo. E noi l'abbiamo lasciato in Nepal alle prese con la sua quarta vita dal titolo Ritorno nel mondo. E in Nepal c'è bisogno di una radio libera, lui ha gli strumenti, la voglia di farlo, è un modo per tornare al mondo, come dice lui. Il progetto deve durare 6 mesi, viene coinvolto anche l'amico musicista Franco Ceccarelli, e in realtà il lavoro lo prende, gli piace, rimane 3 anni in Nepal, però a un certo punto le cose lì precipitano, perché il Nepal è un posto molto affascinante ma anche pericoloso, c'è una guerra civile, ci sono attentati, sequestri di persona, c'è un clima di terrore e anche di diffidenza. A un certo punto Claudio si accorge di essere visto con occhi diversi dai locali. Lui è comunque un occidentale, un ricco occidentale. E poi un giorno c'è un evento che gli fa prendere la decisione definitiva, quella di tornare in Italia. Sta uscendo da un supermercato, alle sue spalle sente un'esplosione fortissima, decine di feriti, tanti morti, un episodio ovviamente scioccante. Col nome la madre di tutto e di ogni cosa, il nome divide la forma e l'illusione. È È il 2002, Claudio torna in Italia, in realtà non è pronto a tornare proprio nel caos milanese, ha bisogno di un'oasi di pace, ha bisogno di un posto dove trovare serenità, ispirazione, e questo posto sarà la Sardegna, a sud di Oristano, qui vive tra gli animali, vedendo il mare, è lì che scrive un nuovo album, In Alto, è l'ingresso nella sua quinta vita, quella da aspirante artista di grande successo. E non è un caso che lui parli di artista e non di cantante, non perché non sia stato un cantante di successo, ma perché è stato anche altro, un artista nel senso più ampio. Pedra Mendalza, il titolo del suo primo film, uscito nel 2003, un viaggio in Sardegna accompagnato da musiche, immagini psichedeliche, e il cinema poi lo sperimenta anche da attore grazie alla grande amicizia che lo lega a un altro grande mistico, forse il più grande mistico tra gli artisti italiani, Franco Battiato. Lui nel 2002 sta girando il film Musicante, chiama Claudio per un cameo, gli affida l'epilogo, quasi la morale della storia, quando la protagonista scopre in un bar da un notiziario che in Europa c'è stata un'importante trasformazione politica, ne rimane scioccata. Claudio, un cliente del bar, commenta la vicenda con un breve monologo sulla provvisorietà degli eventi e un delirio filosofico. Bisogna uscire dalla storia, è tutta un'apparenza. Cosa vuol dire? Vuole dire che non è per niente detto che io sia qui adesso e nemmeno che tu sia qui adesso. Due illusioni importanti, fondamentali. Primo, il tempo non ci definisce. Secondo, lo spazio non ci colloca. Terza, siamo in paranoia spesso pensando di non essere creativi abbastanza per riempire i vuoti che sentiamo, le nostre mancanze. Quarta illusione, quella che questo pacchetto di tre sostiene e intanto le contiene. Ah, scusa, dimenticavo la quinta. L'illusione che non si possa conoscere il tutto. C'è molto di Claudio in questo monologo, la convinzione che il tempo e lo spazio non ci definiscano, che il tempo sia circolare, in poche parole, ma che la realtà non esista e che il nostro corpo sia soltanto un carro di passaggio per la nostra anima, che invece rimane immortale, speriamo abbia ragione lui. Nel 2009 lui fa un incontro che gli cambierà la vita, si tratta di Susanna Schrimperna, scrittrice, studiosa di astrologia, e in realtà i due non si incontrano fisicamente, non subito, c'è una specie di colpo di fulmine epistolare, si scambiano qualche email, lui le chiede di scrivere qualcosa insieme, pone la cosa come un gioco, lui scrive una frase, lei la continua, il gioco diventa un libro che Claudio e Susanna finiscono di scrivere in un anno, poco prima di scoprire che una malattia degenerativa che aveva colpito Claudio nel 2009 l'aveva portato a un tumore che di lì a poco lo costringe sulla sedia a rotelle. Lui la chiamava la sesta vita. Il libro Il mio volo magico con Claudio Rocchi esce nel 2015, due anni dopo la scomparsa del cantante a 62 anni. Questo è il ricordo del suo amico Eugenio Finardi. Claudio Rocchi, quando a Milano c'erano 12 hippie in tutto, il loro principe, il nostro principe, era Claudio Rocchi, aveva una meravigliosa mansarda, un attico, Viale Campania, che era diventato il centro per tutti coloro che facevano riferimento a un sogno dell'Oriente come orizzonte alternativo e altro dalla Milano industriale. C'erano sitar, c'erano tappeti e c'erano soprattutto i suoi dischi e la sua trasmissione alla radio. Claudio era un grande amico e se n'è andato troppo presto. Principe degli hippie, come lo chiama Finardi, e lui ha lasciato questo mondo dopo la sua sesta vita, una malattia che gli ha portato via l'uso delle gambe, ma non l'entusiasmo, è andato via senza paura della morte, perché la morte, come la realtà, non esiste. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese e Alessandra Nardini. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.